Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. Così dicendo, Mr. Winkle ritornò sui suoi passi in direzione della sala da pranzo, con la tetra spaventosa risoluzione di accettare la sfida del bellicoso dottor Slammer, affrontandone tutti i rischi. A questa decisione Mr. Winkle era spinto da diversi motivi, il primo dei quali era la sua reputazione al circolo. Era stato sempre considerato come un'alta autorità in ogni questione di sport e di destrezza, sia che si trattasse di esercizi offensivi, difensivi o inoffensivi. E se proprio alla prima occasione di darne la prova egli si fosse tirato indietro sotto gli occhi del suo stesso capo, avrebbe perso la fama e il prestigio per sempre. Inoltre ricordava di aver udito insinuare molte volte dai profani in materia che per tacito accordo dei padrini le pistole non fossero quasi mai caricate a palla, e infine pensava che se si fosse rivolto a Snodgrass perché gli facesse da padrino e avesse dipinto il pericolo a tinte un po' forti, questi avrebbe comunicato la notizia a Mr. Pickwick, che certo non avrebbe perso tempo e l'avrebbe trasmessa alle autorità locali per prevenire così l'uccisione o la mutilazione del suo seguace. Tali erano i suoi pensieri quando tornò nella sala da pranzo e rese noto che intendeva accettare la sfida del dottore. «Volete indirizzarmi a un vostro amico per combinare l'ora e il luogo dell'incontro?» disse l'ufficiale. «Non è necessario», rispose Mr. Winkle. «Decidiamoli adesso e vedrò poi di procurarmi l'assistenza di un amico». «Diciamo allora stasera al tramonto?» domandò l'ufficiale con tono indifferente. «Va benissimo», rispose Mr. Winkle, pensando in cuor suo che andava malissimo. «Conoscete Fort Pitt?» «Sì, l'ho visto ieri». «Se volete prendervi il fastidio di voltare nel campo che costeggia il fossato, imboccare il sentiero che dall'angolo della fortificazione gira a sinistra e poi andar dritto finché mi vedrete, penserò io a guidarvi in un luogo solitario dove la cosa potrà essere sbrigata senza timore di interruzioni». «Timore di interruzioni?» pensò Mr. Winkle. «Non c'è altro, mi sembra», disse l'ufficiale. «Direi proprio di no», rispose Mr. Winkle. «Buongiorno, buongiorno». E l'ufficiale se ne andò fischiettando un allegro motivo. La prima colazione fu tetra. Mr. Tupman non era in condizione di alzarsi dopo gli inusitati stravizi della sera precedente. Mr. Snodgrass appariva sofferente per uno stato di depressione assai spirituale, e lo stesso Mr. Pickwick mostrava un insolito attaccamento al silenzio e all'acqua di Seltz. Mr. Winkle aspettava ansiosamente un'occasione adatta e non dovette aspettare a lungo. Mr. Snodgrass propose una visita al castello e poiché Mr. Winkle era il solo membro del gruppo disposto a camminare, uscirono insieme. «Snodgrass», disse Mr. Winkle quando furono fuori città, «Snodgrass, amico mio, posso contare sulla vostra discrezione?» E così dicendo si augurava ardentemente e devotamente il contrario. «Ma certo», rispose Mr. Snodgrass, «vi giuro...» «No, no», lo interruppe Mr. Winkle, terrorizzato all'idea che il suo compagno prendesse sconsideratamente un impegno troppo vincolante. «Non giurate, non giurate, non è affatto necessario». Mr. Snodgrass lasciò cadere la mano che con fervore di poeta aveva alzato verso le nubi nel pronunciare quelle parole e prese un atteggiamento di viva attenzione. «Ho bisogno della vostra assistenza, amico mio, in una questione d'onore», disse Mr. Winkle. «L'avrete», disse Mr. Snodgrass afferrando la mano dell'amico. «Con il dottor Slammer del 97esimo», disse Mr. Winkle, desideroso di dare alla cosa la maggior solennità possibile. «Un duello con un ufficiale, assistito da un altro ufficiale, questa sera al tramonto, in un campo solitario dietro Fort Pitt. Sarò al vostro fianco», disse Mr. Snodgrass. Thank you. Mr. Snodgrass era stupito, ma per nulla spaventato. È straordinario come in questi casi nessuno, tranne il principale interessato, perda la calma. Mr. Winkle non ne aveva tenuto conto. Aveva immaginato i sentimenti dell'amico in base ai propri. «Le conseguenze possono essere tragiche», disse Mr. Winkle. «Speriamo di no», disse Mr. Snodgrass. «Il dottore è un eccellente tiratore, credo», disse Mr. Winkle. «La maggior parte di questi militari lo è», osservò tranquillamente Mr. Snodgrass. «Ma anche voi lo siete, no?» Mr. Winkle rispose confermando e, accorgendosi di non aver allarmato abbastanza il suo compagno, cambiò tattica. «Snodgrass», disse con voce tremante dall'emozione, «se sarò io a cadere, troverete in un pacchetto che vi consegnerò una lettera per mio padre». Anche questo colpo fallì. Mr. Snodgrass si commosse, ma si impegnò a recapitare la lettera con tanto slancio come se avesse fatto il postino per tutta la vita. «Se muoio», disse Mr. Winkle, «o se muore il dottore, voi, amico di letto, sarete processato come complice presente al fatto. Dovrò dunque chiedere a un amico di rischiare i lavori forzati? L'ergastolo, forse?» Mr. Snodgrass barcollò sotto il colpo, ma il suo eroismo fu invincibile. «E quando si tratta dell'amicizia», esclamò fervidamente, «sono pronto a sfidare ogni rischio». Mr. Winkle maledisse la devota amicizia del suo compagno mentre camminavano fianco a fianco per qualche minuto, entrambi immersi nelle proprie meditazioni. Il mattino era quasi trascorso e la sua disperazione cresceva. «Snodgrass», disse fermandosi bruscamente, «non fatemi venire meno alla mia parola. Non dite nulla alle autorità locali. Non cercate l'aiuto di numerose guardie giurate per mettere in prigione me o il dottor Slammer del 97° reggimento, attualmente alloggiato nella caserma di Chatham, e impedire in tal modo il duello. Non fatelo, vi dico». Mr. Snodgrass afferrò emozionato la mano dell'amico mentre rispondeva entusiasticamente: «Non lo farò, cascasse il mondo». Un brivido percorse Mr. Winkle da capo a piedi, mentre lo invadeva la certezza inesorabile che non poteva più far conto sui timori dell'amico e che quindi era destinato a servire da bersaglio vivente. Quando gli estremi della questione furono ufficialmente esposti a Mr. Snodgrass e una scatola di buone pistole con un buon corredo di polvere, palle e detonatori furono acquistati da un armaiolo di Rochester, i due amici tornarono all'albergo. Mr. Winkle a ruminare sull'incontro imminente e Mr. Snodgrass a preparare gli strumenti di guerra e a metterli in condizione di servire a un uso immediato. Quando uscirono di nuovo diretti alla loro sciagurata missione, era scesa la sera, grigia e opprimente. Mr. Winkle si era intabarrato in un enorme mantello per non farsi notare e Mr. Snodgrass portava sotto il suo gli strumenti di morte. «Avete preso tutto?» disse Mr. Winkle in tono agitato. «Tutto», rispose Mr. Snodgrass. «Munizioni in abbondanza, nel caso che i colpi facessero cilecca. C'è polvere per un quarto di libra nella scatola e mi sono messo in tasca due giornali per le cariche». Erano prove di amicizia di fronte alle quali qualsiasi uomo avrebbe sentito una profonda gratitudine. Bisogna supporre che la gratitudine di Mr. Winkle fosse troppo grande per essere espressa in parole, poiché tacque e continuò a camminare piuttosto lentamente. «Siamo puntualissimi», disse Mr. Snodgrass mentre scavalcavano il recinto del primo campo. «Il sole sta tramontando adesso». Mr. Winkle alzò gli occhi verso l'astro morente e pensò con angoscia alla possibilità di soggiacere fra non molto allo stesso destino. «Ecco l'ufficiale», esclamò Mr. Winkle dopo pochi minuti di cammino. «Dove?» chiese Mr. Snodgrass. «Là, quel signore col mantello azzurro». Mr. Snodgrass guardò nella direzione indicata dal dito dell'amico e vide una figura avvolta in un mantello del colore da questi descritto. L'ufficiale mostrò di aver notato la loro presenza con un breve gesto della mano e i due amici lo seguirono dappresso mentre egli faceva strada. La sera si faceva sempre più grigia e il suono malinconico del vento che soffiava sui campi deserti sembrava il fischio di un gigante lontano che chiamasse il suo cane da guardia. La tristezza della scena dava una sfumatura più cupa ai sentimenti di Mr. Winkle. Sobbalzò nel passare di fianco al fossato. Faceva l'effetto di un immane sepolcro. L'ufficiale uscì bruscamente dal sentiero e, dopo aver scavalcato una palizzata e oltrepassato una siepe, entrò in un campo solitario. Là stavano aspettando due signori. Uno era piccolo e grasso e aveva i capelli neri. L'altro era un individuo corpacciuto, con un soprabito gallonato, che sedeva, con perfetta tranquillità, sopra uno sgabello da campo. «La parte avversa è un chirurgo, immagino», disse Mr. Snodgrass. «Prendete un sorso di brandy». Mr. Winkle afferrò la borraccia che l'amico gli porgeva e prese una lunghissima sorsata della bevanda rincuorante. «Il mio amico Mr. Snodgrass, signore», disse Mr. Winkle all'ufficiale che si avvicinava. L'amico del dottor Slammer si inchinò e tirò fuori una scatola simile a quella di Mr. Snodgrass. «Non c'è altro da aggiungere, mi sembra», osservò freddamente aprendo la scatola. «Le scuse sono state nettamente rifiutate». «Non c'è altro, signore», disse Mr. Snodgrass, che incominciava a sentirsi piuttosto a disagio anche lui. «Vogliamo misurare il terreno?» disse l'ufficiale. «Certamente», rispose Mr. Snodgrass. Il terreno fu misurato e i preliminari compiuti. «Vedrete che queste sono migliori delle vostre», disse il padrino della parte avversa, tirando fuori le sue pistole. «Avete visto caricarle? Avete nulla in contrario a usarle?» «No, certo», rispose Mr. Snodgrass. La proposta lo sollevava da un grave imbarazzo, poiché le sue nozioni sul modo di caricare una pistola erano rimaste abbastanza vaghe e incomplete. «Allora possiamo piazzare i nostri uomini», proseguì l'ufficiale, con l'indifferenza di un giocatore di scacchi. «Penso di sì», rispose Mr. Snodgrass, che avrebbe risposto di sì a qualsiasi proposta, poiché non capiva niente dell'intera questione. L'ufficiale si diresse verso il dottor Slammer e Mr. Snodgrass tornò da Mr. Winkle. «Tutto pronto», disse porgendogli la pistola. «Datemi il mantello». «Avete preso il pacchetto, amico mio?» disse il povero Winkle. «Sì, non preoccupatevi», disse Mr. Snodgrass. «State saldo e colpitelo al volo». Questo consiglio ricordò a Mr. Winkle quell'altro che si sente sempre dare al più piccolo in ogni baruffa di Monelli che avviene per la strada, cioè «forza, tagliele!» Consiglio ammirevole se solo si sapesse come metterlo in pratica. Comunque si tolse il mantello in silenzio, ci voleva sempre tanto a slacciarlo quel mantello, e prese la pistola. I padrini si fecero da parte, il signore con lo sgabello fece lo stesso e i due avversari avanzarono l'uno verso l'altro. Mr. Winkle si era sempre distinto per un gran senso di umanità. Bisogna dunque pensare che proprio il desiderio di non fare intenzionalmente del male a una creatura umana gli avesse fatto chiudere gli occhi nel giungere al punto fatale, e che proprio il fatto di aver gli occhi chiusi gli impedisse di notare il comportamento davvero straordinario e inesplicabile del dottor Slammer. Questo infatti aveva avuto un moto di sorpresa. Lo aveva fissato, aveva fatto un passo indietro, si era fregato gli occhi, lo aveva fissato di nuovo e alla fine si era messo a urlare. «Ferma, ferma! Che roba è questa?» disse il dottor Slammer al suo amico e a Mr. Snodgrass subito accorsi. «Non è mica lui!» «Non è lui?» disse il padrino del dottor Slammer. «Non è lui!» disse Mr. Snodgrass. «Non è lui!» disse il terzo signore con lo sgabello da campo in mano. «No, di certo!» ribatté il piccolo dottore. «Non è questa la persona che mi ha insultato ieri sera!» «Davvero straordinario!» esclamò l'ufficiale. «Davvero?» disse il signore con lo sgabello, «ma il problema è vedere se il gentiluomo presente sul terreno non debba essere considerato da un punto di vista formale la stessa persona che insultò il nostro amico dottor Slammer ieri sera, a prescindere dal fatto che lo sia realmente o no». E dopo aver dato questo parere con aria di grande enigmatica saggezza, l'uomo con lo sgabello fiutò una grossa presa di tabacco e si guardò intorno come chi si senta un'autorità in materia. Tonight I'll shave the mountain, I'll cut the hearts from pharaohs, I'll pull the road off of the rice, tear the memories from my eyes, in the morning I'll be gone. I drink a thousand shipwrecks, I steal your paychecks, I paint the sheets across my bed, the birds will all fly from my head, and in the morning I'll be gone. Take every dream that's breathing, find every food that's leaving, shoot all the Nel frattempo, Mr. Winkle aveva aperto gli occhi e anche le orecchie nel sentire che il suo avversario chiedeva una cessazione delle ostilità. E sentendo poi per bocca del dottore che su tutta la questione gravava un equivoco, si rese subito conto del vantaggio che sarebbe venuto alla sua reputazione se avesse celato il vero motivo per cui era sceso sul terreno. Perciò mosse arditamente qualche passo avanti, dicendo: «Non sono io, lo so». «Allora», disse l'uomo con lo sgabello, «questo è un affronto per il dottor Slammer. È una ragione sufficiente per procedere subito». «Vi prego, Payne, state calmo», disse il padrino del dottore. «E voi, signore, perché non mi avete informato di questa circostanza stamane?» «Appunto, appunto», disse l'uomo con lo sgabello, indignatissimo. «Vi prego di non interferire, Payne», disse l'altro. «Posso ripetere la domanda, signore?» «Perché?» rispose Mr. Winkle, che aveva avuto il tempo di meditare la propria risposta. «Perché, signore, voi avete attribuito a una persona ubriaca e scortese il vestito che io ho l'onore non soltanto di indossare, ma di avere inventato. La divisa, signore, che sarà adottata dal Circolo Pickwick di Londra. È l'onore di quella divisa che mi sentivo obbligato a difendere, ed è per questo che, senza fare altre domande, ho accettato la sfida che mi avete portato». «Caro signore», disse il piccolo dottore tutto allegro, andandogli incontro con la mano tesa, «mi inchino alla vostra fierezza. Permettetemi di dirvi, signore, quanto ammiri la vostra condotta e quanto sia dispiaciuto di avervi procurato la noia di questo incontro senza ragione». «Non parliamone neanche, vi prego», disse Mr. Winkle. «Sono lusingato di fare la vostra conoscenza», disse il dottore. «Sono felice di conoscervi», rispose Mr. Winkle. Dopodiché il dottore e Mr. Winkle si strinsero la mano. Lo stesso fecero Mr. Winkle e il tenente Tapleton, il padrino del dottore, poi Mr. Winkle e l'uomo con lo sgabello, e infine Mr. Winkle e Mr. Snodgrass. Quest'ultimo sopraffatto dall'ammirazione per la nobile, eroica condotta del suo amico. «Possiamo sospendere, mi sembra», disse il tenente Tapleton. «Certamente», aggiunse il dottore. «A meno che», intervenne l'uomo con lo sgabello, «a meno che Mr. Winkle non si senta offeso dalla sfida, nel qual caso vi faccio presente che ha diritto a una soddisfazione». Mr. Winkle, con grande generosità, si dichiarò completamente soddisfatto. «O potrebbe darsi», disse l'uomo con lo sgabello, «che il padrino del signore si ritenga ingiuriato da qualche osservazione sfuggitami all'inizio di questo incontro. Se è così, sarò felice di dargli soddisfazione immediatamente». Mr. Snodgrass s'affrettò a dichiararsi obbligatissimo per la gentile offerta del signore che aveva parlato per ultimo, offerta che tuttavia era costretto a declinare, data la sua completa soddisfazione per il comportamento di tutti i presenti. I due padrini misero a posto le scatole e tutti lasciarono il terreno con un'aria assai più vivace di quando vi erano giunti. «Vi tratterrete molto qui?» disse il dottor Slammer a Mr. Winkle, mentre camminavano amichevolmente fianco a fianco. «Credo che partiremo dopodomani», fu la risposta. «Spero che avrò il piacere di vedere voi e il vostro amico nel mio alloggio e di passare con voi una bella serata dopo questo spiacevole malinteso», disse il piccolo dottore. «Non avete impegni per questa sera?» «Abbiamo qui alcuni amici», rispose Mr. Winkle, «e stasera non vorrei lasciarli, ma voi e il vostro amico potreste raggiungerci al Toro». «Benissimo», disse il piccolo dottore. «Sarà troppo tardi alle 10 per una visita di mezz'ora al massimo?» «Ma no, venite», disse Mr. Winkle. «Sarò felicissimo di presentarvi i miei amici, Mr. Pickwick e Mr. Tupman». «Ne sarò anch'io molto lieto», replicò il dottore senza affatto sospettare chi fosse Mr. Tupman. «Verrete dunque?» disse Mr. Snodgrass. «Senz'altro». Nel frattempo erano giunti sulla strada, si scambiarono calorosi saluti e si separarono. Il dottor Slammer e i suoi amici tornarono in caserma e Mr. Winkle, in compagnia del suo amico Mr. Snodgrass, si diresse all'albergo.